e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, prima di tutto devo portarti i saluti di un gruppo di donne molto in gamba, le donne del Sor Optimist Club di Vicenza e Bassano del Grappa, che io ho avuto il piacere di incontrare ieri sera. Allora, tanti saluti e baci. Esatto, allora, sono delle grazie. Nostre grandi fan, ma soprattutto io sono una fan loro, perché sono delle donne stra in gamba, molto impegnate sul territorio con tante iniziative che poi ti racconto magari a microfoni spenti, perché ce ne sono un paio che ti piaceranno molto, per cui le saluto, sono state affettuose. Ho portato là le mie donne di denari e io porto a te invece il loro affetto. Grazie. Eccoci mi sento qua. Già più ricaricata sì. E positiva. Devo dirti che anch'io, perché sono proprio in gamba. Quelle donne sostengono. Esatto. Allora, io oggi mi occupo di fiscalità della casa, fra un po' ritorno sulla settimana del lavoro agile e ti racconterò che cosa fa il nomade professionale. Tu che cosa mi proponi allora, oggi? Allora, tre parole: vaccini, sì. Graminace e pelle. Ah, però. Va bene così, molto molto sintetica, perché sono già le 10:37 e la nostra prima mezz'ora è andata. Esatto, la mezz'ora chissà nella testa di chi. Andiamo, va. Allora, prima di tutto, la borsa oggi è un po' incerta. Milano perde lo 0,4%, spicca ancora il Banco BPM che corre anche oggi per 2 punti. In negativo invece abbiamo Salvatore Ferragamo, meno 3,5 punti, oltre 1 punto di ribasso per Generali, Italgasterna, Banca Mediolanum ed Exor. Per la borsa è tutto, poi tanto ci ritorneremo alle 11:30 con qualche dettaglio. Volevo segnalarvi nella rosa delle nostre informazioni di servizio che oggi è in edicola con il Sole 24 Ore ma anche online, una guida molto interessante per districarci in tutte le nuove sfide digitali. La pubblica amministrazione procede a macchia di leopardo in fatto di informatizzazione degli adempimenti, si fa sempre però più ampio il ventaglio delle opportunità di colloqui online fra uffici, cittadini, contribuenti e imprese, dai documenti dell'anagrafe comunale, carte d'identità in testa, fino agli adempimenti fiscali, dai passaporti ai bandi europei e nazionali, tutto ormai può avvenire online. Nella guida in edicola oggi, appunto, come vi dicevo, con il Sole si passano in rassegna le novità più rilevanti in fatto di documenti che possono viaggiare in rete a partire dalle modalità di comunicazione con tutti gli uffici della pubblica amministrazione, quindi tutte le notizie relative alla nostra vita digitale. Andiamo al lavoro agile. Allora, ne abbiamo parlato anche ieri, ne stanno parlando un po' tutti, guarda caso sta diventando adesso l'argomento che andrà di moda per un po', speriamo che sia qualcosa di più di una moda, ma lo è per molte aziende. Da lunedì scorso e fino a venerdì, quindi dal 22 al 26 maggio, Milano promuove il quarto appuntamento annuale, che da giornata singola si trasforma in settimana del lavoro agile. Era la giornata del lavoro agile, adesso è diventata la settimana. Un'iniziativa che ha contagiato anche diverse zone d'Italia. Per gli appassionati di termini anglosassoni, questo fenomeno è meglio conosciuto come smart working e da 2 settimane ha anche una legge nazionale che lo disciplina, anche se molte aziende, dopo una fase di sperimentazione, da tempo ormai consentono a migliaia di dipendenti di organizzare la propria giornata lavorativa secondo criteri di flessibilità, autodeterminazione. C'è anche un modo nuovo per parlare di tutto questo e ieri questa nuova declinazione è stata proposta dalla più grande società di ricerca di mercato, che è la Doxa, che ha coniato il termine, Nicoletta, di zainocrazia. Ti piace? Sì, abbastanza. Oggi portiamo a casa una cosa nuova, insomma, un termine nuovo, un concetto nuovo. Ci spiega qualcosa in più il professor Leonardo Previ, docente di gestione delle risorse umane all'Università Cattolica di Milano e anche autore di Zainocrazia, un libro che però forse ancora non è in libreria. Professor Previ, buongiorno, è così? Buongiorno, buongiorno a voi. È un annuncio, il libro sarà in libreria per la verità tra un paio di mesi. E ci lavoriamo da tempo, soprattutto con gli studenti giovani dell'Università Cattolica. E si parla di zainocrazia principalmente come tentativo di arginare la burocrazia. Burocrazia è una parola che ha cominciato ad andare di moda in Europa un paio di secoli fa e sapete bene che dentro c'è burò, il tavolo, l'ufficio e Kratos, il potere. Quindi proprio evocava una specie di stanzialità che poi è diventata molto rapidamente immobilismo e a cui oggi i giovani si ribellano, questa è la ottima notizia, se ne vanno in giro o perché sono costretti a farlo, i processi di automazione determinano una sistematica espulsione di forza lavoro dalle imprese, oppure perché lo scelgono per una ragione molto, molto legata alla cronaca di questi ultimi anni. I mezzi di produzione non sono più stanziali. Per lavorare dentro una società dominata dalla conoscenza dove il settore terziario, no? Il settore trainante rispetto alla società di qualche secolo fa, molte differenze. Ecco, ciò che ci serve per vivere, per sopravvivere, per lavorare, sta per lo più nel nostro zaino. Quello che non sta ancora nel nostro zaino è la capacità organizzativa da parte delle imprese di aggiornarsi, di capire come assecondare questa tendenza, e questa è la ragione per cui il Comune di Milano per qualche anno ha fatto un giorno, quest'anno una settimana, a nostro avviso tra poco farà qualche mese. Ecco, esatto. Poi senta, tutto l'anno. Professor Previ, e via di zaini. Ci sembra quindi un ulteriore aggiornamento del concetto di lavoro agile. Si va già oltre, le aziende non lo hanno ancora completamente declinato al loro interno, questo tema che già si tenta di darne addirittura un'evoluzione. Chi è esattamente il nomade professionale? Chi sono questi zainocrati? Io credo che dovremmo pensare meno al precariato e più a un fenomeno che è successo, pensate, 1000 anni fa, quando l'invenzione della carta ha consentito, dapprima in Spagna, poi nel resto d'Europa, di sganciare il libro dallo scriptorium, l'unico luogo dove chi voleva studiare poteva andare a studiare, lo ha sganciato da un luogo fisico, la biblioteca del monastero, e ha consentito l'invenzione del libro portatile. E quindi il chierico vagante è l'antecedente dello zainocrate, qualcuno che attraversa l'Europa con gli strumenti di lavoro sotto il braccio e che dunque si fa una domanda chiave: perché mai il lavoro dovrebbe essere impacciato? Meglio un lavoro agile, naturalmente in un contesto molto differente rispetto a quello di 1000 anni fa, dove è diventato economicamente vantaggioso trasferirsi in aeroplano. In questi giorni constatavamo che per i nostri figli è forse più normale e addirittura in alcuni casi più economico prendere un aereo per andare in una capitale europea che non prendere un taxi per spostarsi di qualche chilometro in città. È vero. Quindi l'agilità, l'epoca della sharing economy anche offre anche gli spunti di chiacchierata. Quindi questi zainocratici, intanto, professor Previ, sono i nostri figli, come dice lei, coloro che con l'aiuto di uno zaino sono in grado di affrontare al meglio la volatilità, l'incertezza, la complessità e l'ambiguità dell'odierno mercato del lavoro, sfruttando al meglio le proprie capacità fisiche e mentali. Cosa ci mettiamo nello zaino? Prima di tutto dobbiamo lasciarlo sistematicamente vuoto, uscire di casa la mattina con molto spazio per infilarci quello che capita. Ecco, io e Nicoletta non siamo predisposte per la zainocrazia, glielo dico già, perché noi tipicamente da donna abbiamo la borsa di Mary Poppins, quindi chiusa parentesi. Sì. Zaini troppo pesanti ingombrano. E poi alcuni strumenti che naturalmente differiscono da persona a persona. Io suggerisco sempre di mettere un piccolo metro pieghevole, perché viviamo in una società che apprezza molto i criteri quantitativi, e siccome lo zainocrate, a differenza delle macchine, dei robot, delle routine, spesso si confronta con valori difficili da quantificare. Molti nelle organizzazioni d'impresa sostengono che ciò che non può essere contato addirittura non esiste, no? Che contano solo le cose che possono essere quantificate. Ecco, lo zainocrate sa che ci sono molte cose di valore che magari non possono venire processate da un computer, ma che generano elementi molto preziosi con cui è possibile guadagnarsi da vivere, ma che è difficile contare. Per esempio la capacità di improvvisare. Lo zainocrate è un grande improvvisatore e quindi si serve di un metro pieghevole nello zaino per mostrare che tutti gli elementi che possono essere quantificati verranno quantificati con agilità, però poi ce ne sono degli altri che le macchine banali non sono in grado di processare, e lì abbiamo bisogno delle relazioni. Professor Previ, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci portato in questo nuovo mondo, oggetto di creatività, esatto, e di respiro. Mi è piaciuto molto. Di studio del mondo accademico, sì, esatto, abbiamo un po' trovato anche il modo di alleggerire certi argomenti, se vuoi, che in realtà, l'ho notato anche dai messaggi che arrivavano ieri, continuano un po' ad indespettire gli ascoltatori, che forse non tutti hanno compreso lo spirito, la filosofia del lavoro agile, e molti concepiscono ancora il modo di lavorare come quello di stare 7 ore, 8 ore in ufficio, e una volta che tu chiudi non ti devi portare il lavoro a casa, perché lo concepisci come modo migliore per conciliare vita e lavoro, ma vogliono chiudere quella parentesi, appunto, e affrontare la vita personale e familiare in maniera diversa. Detto questo, ci torneremo su tutti questi argomenti. Professor Previ, grazie, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, a lei. ti do lo zaino della seconda parte della trasmissione. Sì, soprattutto io chiedo alle persone che ci seguono e hanno lo zaino in metropolitana, quando entrate in metropolitana, sfilatevi lo zaino. Sai che pensavo la stessa perché cosa? Occupate due posti. No, posso dirti una volta che con due mamme mi stavo indispettendo perché avevano dietro a mo' di zaino il bambino piccolo. Si sono arrabbiate con me perché sono stata spinta e sono andata a loro addosso. Cioè, ma secondo te un bambino di 3 mesi... Ma tu hai detto che eri la mia amica? Mamma mia, guarda, no, stavo per dire, ma lei non sa chi sono io. No, la colpa era mia che loro avevano il bambino dietro, ma tu un bambino di 3 mesi te lo tieni dietro in metropolitana così imbragato e pronto allo schiacciamento, non so. Che pettegole, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Cuore e denari. E la rassegna stampa di Cuore apre ricordandovi che fino a venerdì avete un filo diretto con i pediatri della FIMP e della SIP per sciogliere tutti i vostri dubbi e per fare tutte le vostre domande sui vaccini. Oggi in linea con noi il dottor Giorgio Conforti, che è pediatra di famiglia e responsabile nazionale per la prevenzione della FIMP. Buongiorno dottore. E buongiorno a voi. Allora, oggi rispondiamo a Elisa che scrive... È pronto? Allora, le mie figlie, le mie due figlie di 6 e 8 anni hanno solo l'antitetanica. Devo aspettare che mi obblighino a fare le altre? Quando sarà così, non vorrò firmare, come mi hanno fatto fare l'altra volta, perché ora che non è più una scelta, è giusto che si prendano loro la totale responsabilità degli eventuali danni. Tra l'altro, e lo mette tra parentesi, dato che sono così sicuri, non dovrebbero... avere alcun motivo per non farlo. Dottore, a lei la parola in questo flash. Ricordo che i pediatri possono rispondere alle vostre domande e lo facciamo anche in diretta. Dottore. Allora, questo loro me lo assumo in responsabilità in quanto faccio parte appunto come pediatra di famiglia di quella organizzazione che lo Stato riconosce nell'assistenza ai bambini fino ai 6 anni, se non fino ai 14 anni. Quindi questo loro lo accetto volentieri. L'altra premessa è che vogliamo che i bambini vadano a scuola. Non deve essere un vincolo a non andare a scuola. La scuola è un luogo non solo di istruzione, ma anche di aggregazione. Se dovessi consigliare a un anziano un po' depresso di come farsi passare la depressione, invece che andare a vedere i luoghi pubblici dove ci sono i muratori, gli operai che lavorano secondo loro sempre poco, invece vadano all'uscita di una scuola, specialmente adesso che è primavera, o l'ultimo giorno di scuola, perché si tireranno sul morale. Vedere i bambini che escono sorridenti, facendo cacciara, incontrando i genitori, è un ottimo modo di essere poco depressi. Quindi sì, bambini sono a terapeutici, scuola. I bambini a scuola e a scuola si cresce. Non vorremmo, e questo speriamo che il decreto verrà cambiato, che venisse fatta una sanzione economica se i bambini non fanno le vaccinazioni. Altri sono gli strumenti per fare pressione di convinzione verso questa signora in particolare a cui adesso rispondo e altre simili. Allora, la signora ha fatto ai bambini che appunto sono nell'età della scuola elementare ma solo vaccinazione antitetanica. Vorrei dire che la signora è stata mal consigliata da qualche medico, questa è la responsabilità soprattutto del medico, che ha fatto correre ai suoi figli uno dei seri rischi di prendersi delle malattie evitabili con vaccino che possono portare a decesso e o complicazioni fino ad handicap per tutta la vita. Detto questo, siccome non vogliamo né che i suoi figli né che altri nelle stesse condizioni corrono altri rischi, il decreto va in questo senso. Quindi la signora dovrà recarsi presso un ufficio di igiene o dal suo pediatra, uno che sappia di vaccini, e dovrà completare il ciclo vaccinale che ha interrotto o ha fatto solo parzialmente. Quindi i richiami dell'antitetanica, dell'antidifterica, dell'antipertosse, dell'antipolio, tenetamente la polio perché torno poi su questo argomento, morbillo, parotite, rosolia, varicella e meningococco C, che sono quell'elenco, come è noto a tutti, dei vaccini assolutamente raccomandati per la tutela della salute. Qui parliamo di eventuali effetti avversi ai vaccini, ma i vaccini ci sono perché ci sono le malattie. Se non ci fossero le malattie non ci sarebbero manco i vaccini, anzi alcuni vaccini sono stati tolti perché grazie ai vaccini le malattie sono scomparse, in primis il vaiolo. Infatti c'è chi dice che i vaccini siano vittima del loro stesso successo. Andiamo al professore, al dottore, andiamo al consenso informato che la mamma delle due bambine dice adesso io non lo voglio firmare perché non è più una scelta ma è un obbligo e quindi è importante che loro si prendano la totale responsabilità degli eventuali danni. Che cosa lo Stato lo fa già, perché ha emanato una legge diciamo negli anni 90, in cui c'è un risarcimento per un eventuale danno riconosciuto da trasfusione, è nata come la legge dei danneggiati da trasfusione da virus e da vaccini. In particolar modo per il vaccino antipolio per via orale, un vaccino che è molto efficace, che ha permesso quasi scomparsa della polio in tutto il mondo, in Italia l'ultimo caso degli anni 70, che poteva provocare, essendo un vaccino a virus vivo, degli effetti avversi in un caso su 10 milioni di vaccinati. Questo vaccino, grazie alla sua diffusione ed efficacia, non si fa più. Attualmente in Italia si fa il vaccino polio ucciso, quindi non ha questo rarissimo effetto avverso. La legge nasceva allora, quindi lo Stato avoca a sé l'indennizzo a fronte di danni da vaccini o da trasfusioni riconosciuti, sottolineo riconosciuti, ed era nato soprattutto per questa vaccinazione, che ora non si fa più, quindi i vaccini non si può dire che sono sicuri al 100%, come nessuna attività umana, nessuna. Adesso il figlio di i figli di questa signora hanno la febbre, gli darà un antifebbrile, si lega il foglietto e si veda se i farmaci per la febbre sono privi di effetti avversi. Quindi è nella scelta consapevole tra l'informazione che un medico corretto dai genitori e si decide per le vaccinazioni. E questo dovrà seguire il recuperare tutto quello che la mamma in questi anni non ha fatto, e giustamente lo Stato si preoccupa della situazione. Allora io ricordo che avete tempo fino a venerdì, ogni giorno dalle 10 alle 17, andate sulla nostra pagina, i pediatri della FIMP e della SIP rispondono alle vostre domande. È un'iniziativa che abbiamo chiamato Un pediatra per amico e la continuiamo a vostra disposizione, quindi veramente una task force di pediatri pronti a dialogare con voi per fare educazione e informazione, per chiarire tutti i vostri dubbi e le vostre domande, le vostre paure, per cui confrontatevi. Grazie al dottor Conforti per essere stato con noi. Buon lavoro. Vi voglio ricordare anche un'altra bella iniziativa che stiamo così curando da tanti mesi, si chiama La Salute Vien Parlando, la facciamo insieme agli specialisti Humanitas. Maggio è il mese, come diciamo noi, di naso e dintorni, quindi apparato respiratorio. Io volevo ringraziare pubblicamente la dottoressa Francesca Puggioni, allergologa, che insieme al dottor Malvezzi è l'esperta della nostra iniziativa di questo mese. Dottoressa Puggioni, parliamo con lei di graminace, ma a partire dalle 11:30. Bene, grazie. Grazie, l'aspettiamo. Se siete allergici, restate con noi. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. upmcchianciano.it. Cuore e denari. L'Europa è la mamma severa e l'Italia è il bambino un po' pestifero che vuole fare sempre di testa sua. Mamma, io voglio andare a giocare a pallone. Prima i compiti e poi il pallone. Mamma, io voglio andare a giocare a pallone. Mamma. Arturo, quante volte te l'ho detto? Prima il dovere e poi il piacere. No, aspetta, però. E questo sempre un po' l'approccio con cui Bruxelles e l'Europa ci guardano, come quel bambino viziato, un po' dispettoso, che deve essere sempre rimesso a posto, redarguito, e gli deve essere intimato di fare le cose per bene, perché non siamo mai in ordine, non siamo mai a posto. Allora, cosa è successo? Che la Commissione europea qualche giorno fa ha consigliato al nostro paese di ridiscutere la decisione del governo Renzi di abolire la tassa sulla prima casa, suggerendo di reintrodurla, almeno per i redditi più elevati e le famiglie più abbienti, questione di redistribuzione della ricchezza. Da quando è stata abolita qualche anno fa, davvero non ha trovato più pace la tassa sulla proprietà immobiliare. Bruxelles adesso ci chiede di ripristinarla, però insomma il governo si sente in seria difficoltà, perché non ne vuole neanche sentir parlare, ragioni elettorali, lo sappiamo bene. Vabbè, detto ciò, come si dice, ribadendo che, visto che siamo anche in piena stagione di dichiarazione dei redditi, vale la pena ricordarlo, l'IMU sulla prima casa non si paga. Molti italiani però sono, per loro fortuna, ma per qualcuno non la considera tale, proprietari di diversi immobili, e in realtà la fiscalità immobiliare la conoscono bene perché sulle seconde case, e non solo, sono chiamati a dare il loro contributo alle casse dello Stato. Allora, quali tasse si pagano sul mattone? In virtù di questo nuovo richiamo di Bruxelles, noi abbiamo pensato di rifare un punto della situazione. Abbiamo tirato fuori dalla naftalina un amico di Cuore Denari che è da un po' che non viene a trovarci. In realtà proprio poco fa mi ha confessato di essere reduce da un gran bel viaggio. Chissà che stimoli e suggestioni ha portato a casa. Mirko Mion, presidente di AGEFIS, Associazione dei Geometri Fiscali. Buongiorno, ben ritrovato, bentornato intanto. Buongiorno a tutti voi, spero di essermi conservato bene nella naftalina. Questo ce lo deve dire lei, ce lo deve dire lei. Mandi una sì, foto. Sì, conservato benissimo. Noi scherziamo sempre Mion, ma insomma la apprezziamo molto per i suoi interventi a Radio 24, ma anche quelli che fa fuori da Radio 24, perché Mion e la sua organizzazione, noi li tempestiamo di domande degli ascoltatori e ci confezionano sempre delle risposte super professionali, per cui grazie anche per questo, perché immaginiamo che anche oggi succederà qualcosa di analogo a quello che è successo in passato. Intanto, come sempre, microfoni aperti ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, IMU, TASI, TARI, prime, seconde case, esenzioni, scadenze. Vi aspettiamo con tutti i dubbi sulla fiscalità applicata agli immobili. Ci ripotete girare anche al 349 238 6666. Riceviamo SMS e messaggi su WhatsApp. Allora, Mion, leggevo ieri, preparando questa trasmissione, un rapporto dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Italiani, che ricordava come la fiscalità immobiliare ha subito negli ultimi anni cambiamenti continui. Questo scenario così mutevole ha reso decisamente complicato quantificare l'esatto costo fiscale di un investimento immobiliare. Tema molto importante, quasi decisivo per qualsiasi scelta di allocazione del risparmio, anche quella che va dirottata verso il mattone. Questa è una considerazione che vale non solo per operazioni complesse di sviluppo immobiliare, ma anche per singoli investimenti, in particolar modo nel comparto residenziale. Singoli investimenti che sono spesso caratterizzati paradossalmente da informazioni scarse e inesatte, che invece possono rappresentare un vero e proprio ostacolo alle scelte di investimento. La fiscalità sul mattone magari è chiara in questo momento, ma non si ha molta visibilità sul futuro, perché da qualche tempo a questa parte ci hanno abituato a cambiarla di frequente. Lei cosa pensa di questa situazione, di questo commento dell'ANCE? Poi andremo all'ABC di tutta la fiscalità attuale. Mion. Ma sicuramente l'affermazione dell'ANCE è condivisibile. La casa è un bene prezioso, tant'è che il 70% dei cittadini italiani vive in una casa di proprietà. Ci possiamo sicuramente poi dopo concentrare sulle scadenze, sulle tasse della casa che stanno arrivando, ma non dobbiamo dimenticare quelle che sono anche le tasse legate alle transazioni immobiliari, quindi sì, le tasse cosiddette di trasferimento, che a seconda della situazione possono variare dal 2% sino al 9%. Quindi è importante comprendere nel momento in cui entro in possesso di un immobile quali sono le tasse sia nell'immediato per l'operazione di trasferimento, ma sia quali sono poi le tasse che verranno applicate nel corso della mia, diciamo così, vita di proprietario. Esatto, nella qualità di proprietario. Certo. Fare quindi delle valutazioni dell'impatto fiscale nella fase di acquisto con informazioni precise per il futuro è estremamente importante, perché così non si va a spaventare inutilmente l'acquirente per l'operazione che deve andare a fare. Certo. Prima di andare agli adempimenti attuali e fiscali legati alla casa, con cui tra l'altro dovranno anche confrontarsi a breve i contribuenti / proprietari immobiliari italiani, le chiedo invece un commento rapidissimo, Mion, su una notizia che è arrivata proprio poco fa, poco prima di andare in onda, perché l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere di aver fatto partire questa campagna di informazione, comunicazione, chiamiamola così. Stanno partendo praticamente circa 1 milione di avvisi bonari per i proprietari di 800.000 immobili che sono nella realtà fabbricati rurali che non sono stati mai dichiarati al catasto edilizio urbano. In cosa consiste? Ne sapeva niente di questa operazione Mion? Insomma, chi deve drizzare le antenne in questo momento? Diciamo che è un'operazione antica, perché in realtà parte dalla legge istitutiva dell'IMU, il Salva Italia ancora nel 2011, che obbligava tutti i proprietari di fabbricati di, diciamo, di terreni rurali a censirli come catasto fabbricati, perché il più delle volte ci si è, tra virgolette, dimenticati di fare questa variazione e quindi sottraendo poi dell'imposta. Era stata data una scadenza per dichiarare in catasto edilizio urbano questi immobili al 30 novembre del 2012. Strada facendo, molti si sono adeguati, ma non tutti. Ecco che sono partiti. Beh, in parecchi non si sono adeguati, perché quasi un milione. No. Sì, sono tanti che sono rimasti indietro. Diciamo che qui l'Agenzia delle Entrate sta facendo ancora un'operazione di grande compliance, cioè dà ancora l'opportunità, quindi ampliando il periodo di opportunità di risparmiare le imposte sulla classificazione corretta di questi immobili con un ravvedimento operoso. Operoso, laddove appunto si dovesse il contribuente andare a variare correttamente la destinazione della propria proprietà immobiliare, al posto di pagare un importo compreso tra 1.032 euro e 8.264, potrebbe risparmiare moltissimi denari pagando un importo di 172 euro, quindi pari ad un sesto del minimo. Chiaramente questa operazione non è un'operazione che può fare in libertà singolarmente il cittadino, perché il cittadino potrà verificare intanto sul sito dell'Agenzia delle Entrate se la propria proprietà rientra in questo elenco di questi circa 800.000 immobili. Poi spetta ovviamente ad un professionista tecnico abilitato la redazione e la presentazione dell'atto di aggiornamento cartografico. Come per esempio un geometra fiscalista, potete farlo anche voi. Un geometra fiscalista che ovviamente si occupa di catasto e di aggiornamenti, quindi un tecnico abilitato e anche garanzia di correttezza delle procedure, sia che si tratti di effettuare una verifica catastale che di provvedere all'accatastamento nei tempi e nei modi previsti dal Benissimo. E insomma, abbiamo commentato anche questa nuova fase di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al catasto terreni, ma che devono fare un saltino di qualità. Allora andiamo alla fiscalità attuale, a quei contribuenti che hanno ancora a che fare sia con IMU, con TASI o con entrambe a seconda delle situazioni. Ricordiamo Mion chi paga l'IMU e chi invece ne è esentato? Allora, intanto ricordiamoci anche qui un antico acronimo, la IUC, le tasse che attualmente vengono applicate ricordano un po' questo acronimo, quindi l'imposta unica comunale, che poi nella realtà era ed è ancora tutt'oggi una sorta di contenitore di tre imposte, IMU, TASI e TARI. L'IMU ormai la conosciamo un pochino tutti, gli obbligati sono i proprietari di, diciamo così, seconde abitazioni, sono state esentate le abitazioni principali che però, attenzione, non rientrano nelle categorie catastali di lusso. Quindi da parte di tutti i proprietari di categorie A1, A8 e A9, quindi abitazione signorile, ville e castelli, questi dovranno pagare ancora l'IMU, mentre tutti gli altri possessori di abitazione principale non dovranno pagarla. Ricordiamo anche che è importante che devono sussistere i due principi, cioè quello della proprietà ma anche del domicilio, cioè uno deve risiedere domiciliare all'interno dell'abitazione perché questa possa essere definita abitazione principale. Certo. Ci sono poi dei casi in cui invece il pagamento dell'IMU è dovuta in misura ridotta. Sì, qui siamo con particolari casi che in alcune situazioni sono state istituite poi dalle varie normative, in alcuni casi è stato delegato poi il comune, ad esempio per le abitazioni concesse in comodato. Con la legge di stabilità 2016 è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile nel caso di immobili appunto ad uso abitativo concessi in comodato come prima casa a parenti di primo grado, quindi padre con figli o figli verso i genitori padre e madre chiaramente. Certo. E sempre che non si tratti, ricordiamo, lo dico nuovamente, di immobili di lusso, sennò altrimenti questo diciamo così, questa agevolazione non può sussistere. Importante anche che il contratto deve essere registrato e chi ha il comodato dell'abitazione deve possedere un solo immobile in Italia e anche qui deve risiedere anagraficamente, nonché vivere nello stesso immobile, quindi il principio che ricordavamo prima. Altro sconto è per l'immobile affittato a canone concordato, ecco qui c'è un IMU calcolato con un'aliquota stabilita dal comune e poi ridotta di un 25%, quindi qui c'è una volontà chiaramente a agevolare i canoni calmierati, certo, per così dire, nell'accordo tra le associazioni delle proprietà immobiliari, certo, e il comune. Per chi deve versarla, Mion, in misura piena o in misura ridotta nei casi che abbiamo appena indicato, entro quanto deve effettuare questo versamento alle casse dello Stato? Che due date ormai, che è il 16 di giugno e il 16 di dicembre, che quest'anno cadrà di sabato e quindi slitterà al 18 di dicembre. Potrà essere versata in quindi due tranche, tenendo conto delle aliquote del 2016, e oppure potrà anche essere versata in un'unica soluzione per chi si vuole togliere il fastidio sotto un certo punto di vista, ma anche a disponibilità finanziaria, certo, per farlo. Allora, abbiamo una domanda di Luisa dalla provincia di Gorizia, che salutiamo. Luisa, benvenuta. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie Luisa, ci dica. Anni fa i miei genitori mi hanno, frutto del loro risparmio, regalato un appartamento. Questo appartamento è a nome mio e io ho la residenza. Però vivo in un altro appartamento, domicilio dove sono da un'altra proprietaria, parte. Esatto, domiciliata con mio marito. Da un po' di anni questa, che sarebbe la prima casa, diciamo, perché c'è la residenza, non è calcolata più e pago l'IMU. D'accordo, va bene. Però quello che vorrei capire è questo, gentilmente. Dall'anno scorso non si paga più quando si è la prima casa, diciamo. Quindi io l'anno scorso non ho pagato la metà, il 50% di dove vivo con mio marito. Mi aveva fatto il conto un ufficio e io ero convinta che andasse bene così. Qualcuno le hanno rivendicato. Sì, questo, ma vorrei sapere se è così corretto, che io dovevo pagare l'anno scorso e anche quest'anno, anche dove io risiedo, che ho il domicilio, quindi il 50%, perché io non ho in nessun caso ho la prima casa, perché lì ho la residenza, qui ho il domicilio. Insomma, io vorrei, certo, capire se devo Ha ragione pagare... Luisa, effettivamente, ogni situazione è un caso a sé e davvero va disciplinata. Mion, allora abbiamo capito bene la fotografia della situazione di Luisa? Sì, la signora Luisa ha ricevuto in donazione da parte dei genitori un immobile nel quale adesso lei non vive. Risiede. Non vive in questo momento. No, il suo domicilio è da un'altra parte. E vive, quindi risiede e domicilia in un immobile dove loro sono proprietari, quindi l'abitazione, sì, principale. Luisa, è così, giusto? La ricevuta in donazione, in questo caso è una seconda abitazione. Però la residenza, Luisa, è nella prima. Esatto. Alla residenza da una parte, domicilia da esattamente un'altra parte. È un caso estremamente particolare. Io direi che il principio è quello della domiciliazione, quindi è da considerare abitazione principale quando sussistono questi due elementi, cioè la proprietà e la domiciliazione. La residenza è un elemento che dovrebbe coincidere, ma in questo caso, non essendolo, io in via prioritaria ritengo che ci siano le condizioni di abitazione principale dove c'è la domiciliazione. E quindi nella seconda parte, cioè, non deve pagare nulla. Dove fisicamente la signora vive. Quindi nella seconda casa non deve pagare nulla, quella che condivide col marito, ma nella prima invece in teoria sì. Deve andare a pagare sicuramente, esatto, perché è da considerarsi. Quindi Luisa, per capire, questo è quello che le è stato suggerito? Anche dagli esperti a cui si è rivolta lei. Come che mi hanno fatto l'anno scorso il conteggio? Io non devo pagare l'IMU anche sulla casa dove sono proprietaria al 50% e dove sono domiciliata con mio marito. Certo, quindi allora guardi, quello che dicevamo poco fa, dove è domiciliata non deve pagare. Non deve pagare, ma nella prima sì. Quella che ha ricevuto in donazione dai suoi genitori, dove ha la residenza ma non il domicilio, in quella sì. Giusto? Esatto. Esattamente, Luisa, esattamente. Questo è quello che lei fa adesso? Il conteggio che è stato fatto la signora Luisa da parte del consulente. Vabbè, allora insomma, questo è il momento sulla situazione raccontata in un minuto e la nostra interpretazione. Luisa, se vuole ci scriva a cuoredenari@radio24.it, così magari a mente fredda scopriamo che abbiamo dato le risposte sbagliate. Mion, perché io ovviamente mi affido no, a lui. No, io ritengo, esatto, ritengo che l'interpretazione, certo, sia quella corretta. Assolutamente. Comunque, se la signora Luisa ce la vuole mandare con, diciamo, maggiori anche particolari, anche sulle date in cui ha ricevuto, dove ha mantenuto o spostato la residenza. Assolutamente. Perché poi ci sono le frazioni di pagamento che complicano ulteriormente le cose. Senta, Mion, allora... Le fa di ginnastica, Mirko mentale, Mion, certo. Mamma mia, sono dei santi. Mm. Allora, abbiamo un minuto di tempo prima di salutarci. Ci metterei la domanda di Gianluca dalla provincia di Lucca, perché in realtà ci rappresenta anche il caso di molti ascoltatori che possono sembrare pochi, ma in realtà magari chi ha una casa di proprietà in Italia, poi se ne va per qualche anno per ragioni di lavoro, mantiene la proprietà, non capisce bene, magari si iscrive all'AIRE, all'associazione appunto dei residenti all'estero, una situazione ancora più complessa. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Io velocissimo, sono iscritto, sì. Io sono iscritto all'AIRE da 5 anni, ho lasciato l'abitazione in uso alla mia ex moglie, io ne sono proprietario. Volevo sapere se ci devo pagare l'IMU oppure no. Eccolo là, Gianluca, grazie. Mion. No, per gli iscritti all'AIRE sono previste proprio le esenzioni o pagamenti agevolati se rientrano in alcune specifiche tipologie di contribuenti. Intanto, sì. Da considerare direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, mi pare che sia questo il caso, quella posseduta da cittadini italiani che non risiedono nel territorio dello Stato italiano. Comunque, Gianluca, anche lei, se ci vuole scrivere, abbiamo i parametri di legge su cui potrà ancora meglio documentarsi. 30 secondi, Mion, per un altro caso delicato che ogni volta che facevamo questa trasmissione in passato veniva sempre fuori. Gli anziani ricoverati in un istituto che lasciano una casa vuota, ne rimangono proprietari, ma la loro domiciliazione è un'altra. Pagano o non pagano? Qui i comuni hanno la facoltà di deliberare l'equiparazione dell'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta, no, per, o proprietà usufrutto da parte di anziani o di disabili ricoverati in istituto di cura. La casa non deve essere affittata. Quindi io rimando poi al regolamento comunale andare a verificare se sussiste questo presupposto. Tendenzialmente quasi tutti i comuni si sono adeguati, però è necessario andare a fare una verifica sul regolamento. Allora, è uno di quegli elementi che è stato, diciamo così, di eventuali sconti o assimilazione all'abitazione principale, che è stato delegato alla volontà del singolo comune, così come l'importo delle percentuali dell'imposta. Mion, devo chiudere, ma noi torneremo presto a ricontattarla, perché abbiamo lasciato fuori tutto il mondo della TASI, della TARI, e anche questa in qualche maniera è fiscalità sull'abitazione. Ci torneremo magari la prossima settimana con un'altra trasmissione. Si tenga pronto, grazie per essere stato con noi. Intanto scriveteci a cuoredenari@radio24.it. Adesso in 30 secondi vi racconto la borsa e poi abbiamo di nuovo... E pelle, che bei temi, a tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. La salute viene parlando, allora parliamoci all'800 24 00 24. Torniamo sulla nostra bella iniziativa, un'iniziativa che ci sta dando grandi soddisfazioni. Accanto a noi gli specialisti di Humanitas, ogni mese un apparato, un organo differente. Il mese di maggio è dedicato alla salute dell'apparato respiratorio. In linea con noi abbiamo la dottoressa Francesca Puggioni, allergologa, che abbiamo salutato prima del nostro GR. Dottoressa Buongiorno. Puggioni, eccoci. L'ho trascinata fino a qua. Le ho tirato uno scherzo barbino, ma volevo parlare con lei perché vogliamo parlare di allergie per alcune persone, sempre più persone mi verrebbe da dire. La primavera è una stagione difficile, d'altronde è il periodo in cui la concentrazione aerea di polline è più alta e quindi è la stagione in cui le allergie raggiungono il picco. Adesso Giusto. È arrivato il turno delle graminacee, è corretto, sì, dottoressa? Correttissimo. Ecco. Allora, iniziamo a rivolgerci a chi sono già tanti, perché abbiamo già Giovanni da Modena. Ecco, partiamo da lui. Giovanni, diciamo la salute viene parlando, facciamo parlare i nostri ascoltatori. Giovanni. Buongiorno a tutte. Ecco, soprattutto alla dottoressa Puglioni, che sono buongiorno. Regionale dal cognome. Chiedevo questo, ho una rinite accertata da graminacee e acari, che purtroppo mi affligge soprattutto la notte, costruendomi una delle due narici e quindi facendomi fare una qualità del sonno del tutto pessima, direi. Volevo sapere, oltre allo spray nasale cortisonico e l'antistaminico al bisogno, cosa posso fare per riuscire a riposare decentemente? Anche perché adesso leggevo oggi nella nostra rassegna stampa con Laura che chi non dorme bene rischia di perdere anche gli amici. Hai lo visto? Sai? Esatto. Però no, lei, quello Giovanni, che mi è dispiaciuto che è andato col punk un po' la cioccolata in quell'articolo, e tu sai che io lì sono molto sensibile. Giovanni, allora, professoressa Puggioni, mi scusi. Allora, sicuramente la qualità del sonno è fondamentale per la nostra qualità di vita, ma anche per evitare un invecchiamento precoce del nostro organismo. Il sonno è fondamentale. Le regole sono quelle quindi di creare innanzitutto un ambiente privo di allergeni, perché nel caso degli acari tante sono le norme di bonifica ambientale che possiamo utilizzare in camera da letto, in particolare delle fodere antiacaro per il materasso, per i cuscini, degli spray acaricidi se abbiamo tanti libri in camera da letto, evitare i tappeti, i tendaggi pesanti, tutta una serie di norme che ci permettono di evitare l'esposizione all'allergene. Lo spray nasale è sicuramente una terapia fondamentale per la rinite allergica, ma solo ed esclusivamente se è preceduta dalla detersione delle fosse nasali. Vuol dire che noi la mattina e la sera soprattutto, quando torniamo dal nostro lavoro, dai nostri giri, dobbiamo, con anche banale soluzione fisiologica, una siringa, lavare la mucosa nasale per allontanare dal naso quelli che sono gli allergeni, gli inquinanti, le sostanze irritanti, ma anche lo stesso muco, perché altrimenti lo spray nasale non riesce a venire a contatto con la mucosa perché c'è la barriera del muco, certo, e non fa effetto. Ecco, sembra elementare, ma solo quando ce lo sentiamo dire, perché se no siamo portati a dare subito, a mettere lo spray nasale sperando che funzioni. Grazie. Ma perché a volte si usano anche spray nasali molto molto aggressivi, allora quelli superano tutto il problema, che poi bruciano anche la mucosa nasale. Quelli prescritti dagli specialisti per la rinite allergica sono molto delicati e non riescono a fare questo suo lavoro se prima non usiamo la detersione in maniera corretta. Professoressa Puggioni, ci occuperemo poi di alimentazione e di pelle con una sua collega, in questo caso dermatologa, ma ancora una domanda. Il problema è che chi ha a che fare con riniti, congiuntivite e asma, che sono i segni tipici delle reazioni allergiche, può avere anche problemi con l'assunzione di alcuni alimenti che quasi immediatamente scatenano delle reazioni, mi viene corretto in mente, no? Il prurito, oppure magari la comparsa di piccole vescicoline. Perché sì, noi sui pollini che volteggiano nell'aria abbiamo poco margine d'azione, ma possiamo invece evitare di mettere nel piatto alimenti che possono complicare la situazione. È corretto? Certo, la vita, correttissimo. La vita degli allergici è dura, perché ci si sente sempre dire bisogna mangiare frutta e verdura per fare la dieta, poi però chi è allergico tante cose non le può mangiare perché ha delle reazioni che partono, come si diceva prima, dalla banale sindrome orale allergica, quindi il prurito, il gonfiore della lingua, a alcuni casi con lo shock anafilattico. Bisogna saperle queste cose. Allora bisogna fare i test allergologici per capire a quali pollini noi siamo sensibili. Un racconto con un diario completo da dare al nostro medico specialista, in modo tale da avere una guida su quelli che possono gli alimenti essere gli alimenti sospetti. Fare i test allergologici per gli alimenti, sono anche questi fattibili in 10 minuti, non sono invasivi, sono molto semplici da effettuare, individuare le cross reazioni, quindi a quel polline corrisponde la stessa proteina in quell'alimento, e poi soprattutto però farci consigliare dal nostro specialista allergologo che tipo di alimentazione avere, perché io non posso eliminare la frutta e la verdura, quindi devo avere delle alternative, oppure dei metodi di cottura che mi bloccano l'allergia, perché di solito un alimento trattato con la cottura, ad esempio anche a vapore, che è molto delicata, però ha un potere di diminuire l'allergenicità di un alimento. Una guida proprio per sopravvivere al caldo estivo con frutta e verdura, alle diete e alle allergie contemporaneamente. Professoressa Puggioni, grazie. I consigli dei nostri esperti, degli specialisti Humanitas, continuano naturalmente sulle pagine. Voi continuate a scriverci, la salute @radio24.it. Professoressa, buongiorno e buona grazie. Giornata. A presto. Grazie, a presto. A dalla pelle al cuore. adesso sto davanti a te. Sarebbe meglio dire dal naso alla pelle in questo caso. Adesso mi correggi anche lui, che è uno dei miei preferiti. Io lo Venditti, adoro. Davvero? Non abbiamo mai parlato, non me l'avevi mai detto. Mi piace molto. Chissà mai se un giorno vuole venire ospite a trovarci. Lanciamogli questo invito. E non l'abbiamo mai invitato, magari non aspetta altro. Non aspetta altro. E io non aspettavo altro di parlare con la dottoressa Sparavigna, dermatologa. Buongiorno, bentornata. Io aspettavo. Allora, dottoressa, spesso ci si chiede quale sia in generale la dieta migliore per la pelle. Oggi con lei proveremo ad andare oltre, prendendo in considerazione gli alimenti che possono influire sui singoli disturbi in diverse situazioni cutanee, con una particolare attenzione all'esposizione solare, perché adesso noi vogliamo prepararci al sole. Ogni anno, quando andiamo a fare il weekend, magari a fine giugno, luglio, per chi può farlo, andiamo nel parco cittadino, ci mettiamo in giardino a prendere il sole e ci viene l'eritema. I dermatologi sorridono un po' sotto i baffi, alzano un po' il dito e dicono ma bisognava preparare la pelle. Allora, iniziamo sin d'ora a preparare la pelle all'esposizione solare. Dottoressa Sparavigna, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare due cose fondamentalmente. Dobbiamo potenziare le difese antiossidanti, e questo lo abbiamo sempre ripetuto fino alla noia. Bisogna utilizzare frutta e verdura, ma magari conviene aggiungere che, per esempio, oltre al carotene noi abbiamo la possibilità di assumere il licopene, e che il licopene è contenuto nei pomodori. E attenzione, è meglio il pomodoro cotto che il pomodoro crudo per fornire un adeguato quantitativo di licopene. Abbiamo l'olio d'oliva con l'acido maslinico, che ha un'azione antiossidante molto importante. Ma abbiamo anche la necessità, e questa forse è una cosa di cui si parla molto meno, di stimolarle le difese immunitarie del nostro organismo e della nostra pelle. E questo noi lo possiamo fare agendo sul microbiota intestinale e sul microbiota cutaneo. Eccolo lì. Ecco, quindi il microbiota è quell'insieme di batteri che è presente come ospite sulla nostra pelle, nel nostro intestino, in tutti gli orifizi del nostro organismo. O meglio, potremmo dire che noi siamo ospiti del microbiota, perché se calcoliamo il numero totale di cellule di questi nostri ospiti, è superiore tre volte il nostro numero. Quindi noi siamo in minoranza. Siamo in minoranza. Quindi attraverso l'utilizzo di probiotici o di integratori specifici, noi possiamo andare a agire molto positivamente su questo microbiota. Ma se vogliamo cominciare dall'alimentazione, per esempio, possiamo abbondare in yogurt, possiamo abbondare in latte di kefir e tutti quelli che sono gli alimenti fermentati. Questo ci può veramente aiutare sia come preparazione alla massima esposizione solare che faremo quando andremo in ferie, ma anche poi durante tutto il periodo in cui ci esponiamo al sole. Tra l'altro, dottoressa Sparavigna, io so che lei è stata scelta da un grande dermatologo, per un americano, per scrivere un capitolo di questo manuale, tutto dedicato all'alimentazione, corretto? Sì, tutto dedicato all'alimentazione e ai cibi funzionali per un corretto invecchiamento di tutto l'organismo e in particolare della pelle. Quindi è stato un bel riconoscimento. Innanzitutto un riconoscimento, ma una bella sfida, perché in questo capitolo volevo proprio mettere anche tutta la nostra essenza mediterranea, e quindi ho parlato della dieta mediterranea e di quelli che sono i suoi collegamenti molto positivi con la pelle. Ecco, non ci sembra quasi possibile che quello che mettiamo nel piatto ci aiuti a mantenerci anche belli, a dare bellezza e salute alla nostra pelle, ma è davvero così, e quindi diventare belle può essere anche un'esperienza molto gustosa e soprattutto colorata. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo. Se avete dei problemi di pelle, acne, dermatite, volete avere dalla dottoressa Sparavigna dei consigli alimentari, restate anche se, a proposito di sole, proprio dopo le prime esposizioni solari si risveglia l'herpes. La dottoressa Sparavigna ha delle notizie per noi. Cuore e denari. Dammi tre nostre tre parole di oggi sono sole, pelle e alimentazione. Ne stiamo parlando con la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa e presidente dell'Istituto Dermig, che è un istituto di ricerca clinica e dermatologica. Mi dà tre alimenti, dottoressa Sparavigna, che non devono mancare assolutamente sulle nostre tavole da qui a quando andremo al mare, per chi avrà il piacere di farlo o comunque per chi vuole invecchiare bene. Frutti rossi, quindi mirtillo, fragole, ciliegie, uva rossa, proteine vegetali, quindi alimenti ricchi di proteine vegetali, quindi tutte le fibre a gambo lungo, oppure per esempio ovviamente i legumi associati a una piccola quantità di carboidrati. Un'altra cosa che non deve mancare sono le erbe aromatiche, perché le erbe aromatiche prevengono uno dei meccanismi più importanti dell'invecchiamento della pelle, che è quello della glicosilazione delle proteine. Ebbene, utilizzando il rosmarino, il basilico, il prezzemolo, anche l'aglio, noi riusciamo a prevenire la formazione di queste proteine alterate e quindi invecchiate. Quindi due foglie di basilico che stanno perfette, proprio su una bella, due spaghetti pomodoro, prendiamo dal pomodoro il licopene perché è cotto. Ci aggiungiamo il basilico, che così evita quella parola che io non ho capito, lunghissima, cos'è, che per la nostra pelle... La glicosilazione delle proteine. È come se le proteine diventassero caramellate. Ecco, non facciamo caramellare le proteine e noi siamo a posto. Sì. Abbiamo una domanda da un nostro ascoltatore che andrà ad agosto al mare con la moglie e il piccoletto nel suo pancino, che arriva a settembre, sarà un vergine quindi. Può e quali precauzioni deve avere per prendere il sole? Parliamo di mamme con la pancia. Allora, mamme con la pancia devono stare al fresco. Non è certo questo il momento di esporsi al sole, quindi magari godere dei benefici del sole, perché qui dobbiamo praticamente produrre vitamina D per due, sì. E allora bisogna stare all'aria aperta, però non direttamente esposti al sole, nelle ore migliori della giornata, lo ricordiamo, quelle del mattino, del primo mattino e quelle del tardo pomeriggio, e soprattutto privilegiare un'alimentazione molto molto semplice, molto leggera, pasti piccoli e frequenti, fatti appunto di frutta fresca e di abbondanti verdure. Dottoressa Sparavigna, poi dedicheremo sicuramente un'altra puntata al tema, ma sole per molte persone significa anche herpes. È un virus che sonnecchia, poi si sveglia, colpisce e soddisfatto torna a dormire. Sì. Sulle labbra compaiono delle piccole pustoline ed è molto molto è antiestetico, doloroso e fastidioso. Che cosa si può fare per le persone che sanno di avere l'herpes e quindi che ritorna? Possono mettere in atto alcune strategie per evitare che torni, almeno per così distanziare gli incontri con l'herpes. Che cosa devono fare? Allo stato attuale delle conoscenze, noi non disponiamo di farmaci in grado di debellare completamente il virus dell'herpes simplex. Una volta che questo virus penetra nel nostro organismo, si nasconde nei gangli nervosi ed attua tutta una serie di strategie per mascherarsi al nostro sistema immunitario e quindi in pratica ce lo teniamo per tutta la vita. Non ci dà fastidio ovviamente per tutta la vita, ma in certi momenti particolari tende a dare espressione di sé, perché sono quelli magari dei momenti in cui noi abbiamo un sistema immunitario un attimino più addormentato e che quindi consente al virus di esercitare la sua azione negativa. Per poter evitare tutto questo, noi dobbiamo adottare degli stili di vita che ho stilato in un decalogo e che sono legati logicamente alla esposizione al sole, perché comunque è importante non andare non protetti al sole, fare anche attenzione agli sbalzi di temperatura, quindi passare dal caldo al freddo, oppure esporsi al freddo senza coprirsi adeguatamente. Non quindi fuori stagione, caldo, dentro l'aria condizionata è un botto. Infatti. quindi anche utilizzare moderatamente l'aria condizionata. Assolutamente bisogna seguire i principi di una dieta sana, ma bisogna anche riposarsi adeguatamente e fare di tutto per essere di buon umore, perché il buon umore aiuta tantissimo il sistema immunitario a tirarsi su. Dobbiamo smettere di fumare. Lo so, quella, noi abbiamo il dottor Boffi che ci aiuta a farlo sulle nostre pagine, mi raccomando, consigliatele. Io so che lei ha un approccio particolare all'herpes, lo descrive, sta raccogliendo anche i casi per dimostrare poi questa soluzione, direi a portata di mano. Dottoressa Sparavigna? Ho fatto una piccola scoperta e l'ho descritta in un ebook che è uscito in questi giorni e che sta avendo molto successo. Io ho fatto la prefazione, quindi io so che cosa racconta la dottoressa Sparavigna, ma mi avete tenuto fuori da questo segreto. Ma so che vuole un po' arruolare persone con l'herpes. Dove le indirizziamo, dottoressa Sparavigna? Sul mio sito www.adellesparavigna.it oppure sulla mia pagina di Facebook, Studio Dottoressa Adele Sparavigna, perché lì c'è un questionario che si può compilare online. E chi mi fa il favore di compilare questo questionario contribuisce ad una ricerca che verrà pubblicata. Dove non ci sono farmaci, vero, dottoressa? Assolutamente farmaci. Ma direi che è un rimedio a portata di mano. Paola da Vicenza, buongiorno, ce l'abbiamo qua in linea per l'ultima domanda alla dottoressa Sparavigna. Paola, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamata. Semplicemente... cuperose e macchioline che compaiono ad una certa età nel viso, cosa si può fare per non peggiorare, Paola, la situazione? Grazie, per noi sì. È semplicemente una domanda, ci sono anni di ricerche, formulazioni eccetera, e soprattutto la dottoressa Sparavigna ha meno di un minuto per rispondere a Paola, sempre più difficile, ma noi ce la faremo. Allora, borragine, zucca, mirtillo, uva rossa, evitare farine bianche e zucchero. Dottoressa Sparavigna, un mito, ma, vero? Grande. È un mito. Torni prestissimo a trovarci. Noi la ringraziamo. Anche messaggi arrivano dalla diretta Facebook. Vero. Gireremo alla dottoressa Sparavigna. Grazie per averci sentito, bene. Seguito. E anche se ci volete bene, la cosa ci piace molto. Noi torniamo domani nel frattempo, e quindi ci vorrete ancora più bene. Speriamo. Buona giornata a tutti.